Senza di rina, qua c'è da fili di clara. Peek-a-boo, non la tiro, la chiamo una ciara. Cazza, dude, e io la ganga ciara. Metta bazza, mi cacca. Peek-a-boo, non la tiro, la chiamo una ciara. Cazza, dude, e io la ganga ciara. Metta